Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, l'ultima della settimana, e come annunciato oggi siamo in diretta da Capri, dove si è aperta la prima giornata di lavori del convegno annuale dei giovani imprenditori di Confindustria, convegno che, a mio avviso, visto che ormai anni che lo seguiamo, ha due caratteristiche quest'anno: si occupa di giovani e quindi non di altri temi, e non ha i politici, e ne parleremo fra un attimo con il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria. La giornata economico-finanziaria, però, prima di tutto, chiaramente ci occuperemo anche delle dichiarazioni molto dure di Barroso oggi, presidente della Commissione europea, che ha detto: non facciamo una conferenza stampa perché l'Europa sta dando una pessima prova di sé di fronte ai mercati. Ancora manca un accordo, oggi vertice Eurogruppo, domani vertice Ecofin e poi domenica il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo a livello europeo. I mercati però in questo momento sono tutti in rialzo, intorno a 2,5 punti percentuali, non fa eccezione Milano, più 2,6%, e in rialzo, in recupero, anche se non un recupero completo dopo gli scivoloni di ieri, i due titoli che più ieri avevano perso, Unicredit più 6,32%, Intesa San Paolo più 6,30%, il Banco Popolare guadagna il 5%, Mediaset pure, Prismian più 4,20%, Tenaris più 4,20% anch'essa, Buzzi Unicem più 4%. Monte dei Paschi, che ieri era il secondo peggior titolo, recupera, ma anche qui in maniera non sufficiente, il 4% in questo momento. Negativa Enel Green Power dell'1,6% e Ansaldo STS dello 0,80%. Invariata la Banca Popolare di Milano, che è tra i bancari quella appunto che cresce meno, perché non cresce. La Popolare Emilia Romagna più 1%, e quindi parleremo delle nuove generazioni, di questo problema spesso evocato del passaggio generazionale, ma anche della capacità che hanno i giovani di farsi largo, non solo di aspettare che gli venga dato spazio, con un paese che obiettivamente da più parti viene definito non un paese per giovani, alcuni potrebbero aggiungere anche non un paese per donne. Ma restiamo su questo tema. 349-238-6666 per i vostri sms. Prima, come sempre, però, le altre notizie in breve. Allora, sì, vedo già dei messaggi che dicono ricopertura tecnica. Sì, c'è una ricopertura tecnica, insomma, io starei cauto in questo periodo, perché veramente quando vedi un titolo fare meno 7, o anzi più 7, poi meno 12, poi più 6, insomma, è più una parca che una borsa. Vediamo cosa decidono, se decidono, o cosa non decidono i paesi europei lungo questo fine settimana, e poi lunedì la reazione del mercato sarà più chiara. L'oro comunque sale a quota $1,629 l'oncia, il petrolio è leggermente in rialzo a $87,50. Come va lo spread, chiedono giustamente alcuni di voi, è sempre molto alto, per fortuna leggermente sotto i 400 punti base, a 385 punti base, anche il rendimento dei nostri BTP è al 6%, quindi si riduce un po' quello che l'Italia deve chiedere al mercato per farsi finanziare il debito rispetto a quanto non debba chiedere la Germania. L'agenzia di rating Fitch dice: attenzione, Italia e Spagna sono paesi solvibili ma potenzialmente illiquidi, e la ringraziamo per questa guffata, ma oggi non ho voglia di gufi capresi. Fitch: nessuna minaccia comunque alla Francia, sempre dice l'agenzia di rating sulla tripla A. E invece il Fondo Monetario Internazionale, per voce della neo direttrice generale Christine Lagarde, dice di essere pronto a tutto pur di aiutare la zona euro. Insomma, dopo le misure non convenzionali della Germania, il Fondo Monetario pronto a tutto, sono dichiarazioni che ricordano più il periodo di guerra che interventi sui mercati. E poi però, attenzione, Barroso, ma anche Juncker, presidente dell'Eurogruppo: l'Unione Europea sta dando di sé un'immagine disastrosa. Queste le parole di Juncker. Ed è così divisa l'Europa dell'area euro che appunto non si è neanche riusciti a tenere una conferenza stampa oggi, lo ha deciso lo stesso Juncker, mentre dall'Europa però è arrivato un monito all'Italia: dovete muovervi con il piano sulla crescita, col DL sviluppo, come si chiama, di cui ancora non abbiamo capito che cosa conterrà. Spunta con forza, mi sembra di capire, l'ipotesi di un concordato fiscale, condono fiscale, chiamatelo come volete. E però sempre l'Europa chiede oggi all'Italia ulteriori riforme. La Banca d'Italia, tutti soddisfatti, tutti i commenti soddisfatti oggi per, e anche ieri sera dopo la nomina di Ignazio Visco. Ascoltiamo la Presidente di Confindustria Marcegaglia, che era appunto al forum italo-tedesco questa mattina a Bolzano. Persona di grande professionalità, persona interna alla Banca d'Italia, quindi certamente in grado di garantire l'autonomia e l'indipendenza che noi abbiamo sempre visto come valore fondamentale. La modalità in cui siamo arrivati, come dire, non è la migliore, però l'importante è che ci sia una persona di questo spessore e appunto capace di garantire l'autonomia e l'indipendenza della Banca d'Italia, quindi siamo soddisfatti. Molto meno soddisfatta invece la Presidente di Confindustria sul DL Sviluppo, ha detto non c'è ancora nulla, abbiamo chiesto al Governo di fare in fretta perché il tempo è scaduto, la situazione si fa ogni giorno più pesante, giusto il richiamo arrivato per fare in fretta sul DL Sviluppo. E allora partiamo dai temi che riguardano i giovani di Confindustria, ma i giovani in generale. È nostro ospite e lo ringraziamo, il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Jacopo Morelli, che organizza appunto questi due giorni caprese. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Alziamo il volume, che detto a chi fa radio, cioè, è un invito a nozze, alziamo il volume, diamo voce al futuro. Questo è il titolo del vostro convegno. Prima di tutto però le chiederei di chiarire un passaggio, perché nel suo intervento introduttivo le ha ricordato come ci sia bisogno anche di nuova leadership. Allora, siccome il tema è molto in voga e già da alcune parti abbiamo visto i commenti, per nuova leadership intende che questa classe politica se ne deve andare a casa, che deve cambiare leadership complessivo del paese. Quale nuova leadership? Ma innanzitutto le sembra in questo momento il paese sia guidato? Noi chiediamo semplicemente che chi governi, chi ha la responsabilità di governo, governi, e senza andare al ritroso a prendere la parte etimologica del termine, governare significa portare la nave, condurre e tenere il timone. Quindi noi appunto ci aspettiamo da chi ha responsabilità istituzionali azioni precise, forti. Poi non è un problema di questo o di quell'altro governo, è la questione di non poter rimandare questioni che vengono invece procrastinate da oltre un decennio. Ecco, è arrivato in queste settimane, a inizio ottobre, un appello di Mario Draghi, prima che passasse alla Banca Centrale Europea, e ha detto, beh, insomma, se l'Italia cresce poco è anche perché ci sono difficoltà dei giovani a inserirsi nel mercato del lavoro con prospettive incerte di reddito. Provocatoriamente le potrei dire che però il futuro non è più quello di una volta, perché il mondo si è sposto verso la Cina e l'India, e sicuramente forse era più facile essere giovani 20 anni fa con prospettive crescenti o attese crescenti. Ma guardi, io sono convinto, e con me tutti i 13.000 giovani imprenditori che fanno parte di questo movimento, che ogni generazione abbia di fronte le proprie sfide e che sia un nostro dovere, un nostro impegno rispondere invece positivamente a quelle che sono le sfide. Insomma, le guerre non si vincono con le ritirate, certamente. Il governatore Draghi, tra l'altro, ha anche detto che la crescita non può fare a meno dei giovani e i giovani della crescita. A questo punto anche qui agiamo con interventi che noi come giovani imprenditori di Confindustria, ma tutti gli istituti internazionali, l'OCSE, la Banca d'Italia da anni ripetono, passiamo appunto dal dire al fare. Non possiamo, a presente quella bellissima favola delle Mille e una Notte, dove c'è questa fanciulla che è Scheherazade, che per salvarsi la vita racconta mille e una favola. Insomma, il paese non può essere gestito in questa maniera. Voi chiedete però un ricambio, mi scusi se insisto sul tema, di classe dirigente, o che la classe dirigente, cioè la domanda è molto semplice: volete prendere il posto, che sarebbe anche legittimo, quindi far pesare di più il vostro ruolo anche generazionale, oppure chiedete che i fratelli maggiori, i cugini più grandi, i padri facciano il loro lavoro? Ma guardi, innanzitutto credo che francamente bisogna smettere di ragionare in termini genitori e figli. Siamo tutti cittadini indipendentemente dall'età anagrafica.

Le menti migliori, si sa, vanno dove le strutture sono efficienti e l'attività più strutturata, condizioni che l'Italia spesso non garantisce. Ne è prova il modesto 1,2% del nostro PIL investito in ricerca, la metà della media europea di Francia e Germania. Nonostante tutto, chi sceglie di rimanere fa quello che può e anche bene. I 97.000 ricercatori italiani, meno della metà dei francesi e lontanissimi dal 1,5 milione di Cina e Stati Uniti, sono tra i migliori in circolazione. Per tasso di produttività individuale, l'Italia è infatti terza dopo Inghilterra e Canada, ma davanti a Stati Uniti, Francia e Germania. Allora, questi dati non certo esaltanti della nostra scheda, qualche risposta, vedo che anche venerdì la verve polemica non manca negli ascoltatori, ad alcuni ascoltatori che scrivono al 349-238-6666, allora, quanti giovani imprenditori hanno avviato da zero una loro attività? Non ho il dato sotto mano a livello statistico, quello che vi posso dire è che però più o meno il 70% dei giovani imprenditori iscritti a Confindustria sono figli di imprenditori, che è un dato però che segnala come questo paese sia, che è un dato che si riverbera poi in altre categorie di questo paese. Il 40% degli avvocati sono figli di avvocati, il 44% di architetti sono figli di architetti. Vi giuro che non ce l'ho, se no ve la darei, ma anche nel mondo del giornalismo la cosa non è molto diversa, immagino, non so se più verso il 40 o il 50%, ma tutto questo, al di là delle polemiche di chi scrive quello che vuole, giustamente, perché l'SMS è libero, segnala un paese bloccato in quello che si chiama ascensore sociale, cioè se tu tendi a fare il lavoro del padre è perché non credi molto nel futuro, oppure la cosa più comoda da fare e non ci sono altri sbocchi. C'è un ascoltatore che mi chiede se quando faccio le interviste devo passare le domande agli uffici stampa. No, mai, né con Morelli, né con Tronchetti Provera, né con nessuno, non passo agli uffici. Gli uffici stampa servono per mettersi d'accordo sui tempi e modi dell'intervista, ma le domande che faccio sono quelle che mi vengono in mente, e lì per lì delle volte le preparo anche, ecco, mettiamola così. Allora, veniamo alle cose serie. Idea, creatività, energia, queste le immagini un po' retoriche sui giovani. In realtà abbiamo scoperto dalla scheda che abbiamo appena ascoltato che un quarto dei ragazzi tra i 25 e i 29 anni, cioè il 25% di chi ha tra i 25 e i 29 anni, non ha avuto un'esperienza lavorativa. Molti, o anzi il restante 75%, quando ce l'ha tende ad averla all'estero. E qui c'è il tema, dentro il tema dello scarso futuro per i giovani italiani, c'è il tema della fuga dei cervelli all'estero. Diciamo fuga dei cervelli, poi non tutti sono cervelli, non tutti fuggono e altri è meglio che se ne vadano, ma il tema c'è tutto, perché il problema, mi sembra di poter dire, non è tanto la fuga dei cervelli, è il non ritorno dei cervelli in questo paese. C'è una rubrica su Radio 24 che si occupa da sempre di questo e il suo autore, oltre che essere un giornalista di Radio 24, è anche relatore in questa due giorni caprese. La rubrica si chiama Giovani Talenti e lui è Sergio Nava. Sergio, buonasera innanzitutto. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Che voi conoscete anche perché spesso copre per noi i temi europei. Allora, è una provocazione dire che più che la fuga è il mancato ritorno il problema? È il problema. Non è tanto il fatto che i nostri giovani vadano all'estero, anzi no, i nostri giovani devono andare all'estero, devono formarsi, devono conoscere l'Europa e il mondo. Il problema è che non tornano o quando provano a tornare trovano le porte sprangate e soprattutto non riusciamo ad attrarre capitale umano qualificato dall'estero. Solo il 12% degli immigrati in Italia ha un'educazione terziaria. Quindi abbiamo un'uscita dall'Italia qualificata, non abbiamo un rientro. L'Istituto per la Competitività ha calcolato recentemente che questo ci costa 1,2 miliardi di PIL. Questo saldo negativo ci costa tanto. Ci manca la circolazione dei talenti. Sì, perché in un mercato unico di libera circolazione dei capitali è giusto che cerchino anche le menti, ammesso che ci siano. Il problema è che queste menti vanno solo fuori e noi, anche come qualità dell'immigrazione, come tu ricordavi, abbiamo una qualità dell'immigrazione bassa che forse anche favorisce alcuni stereotipi. E cioè solo il 12% degli stranieri che arrivano da noi ha un alto livello di istruzione. Voi andate a prendere quello che capita in Gran Bretagna, al di là i figli delle ex colonie, ma l'immigrazione che arriva in Gran Bretagna, diciamo, la City londinese non potrebbe vivere se dovesse basarsi solo sui laureati inglesi in economia e commercio. Assorbe laureati in economia e commercio e quant'altro di ogni paese europeo e non solo. Poi, con i danni che hanno fatto, non potevo anche dire meglio di no. i motivi concreti per cui si blocca il ritorno e per cui e i motivi concreti per cui gli stranieri con maggiori qualificazioni non vengono nel nostro paese? Ma si blocca il ritorno, io ho raccontato, racconto tante storie anche di giovani qualificati che provano a tornare e semplicemente non riescono a rientrare con un salario diciamo pari a quello che hanno all'estero, non sanno, non hanno andando fuori all'Italia hanno perso le connessioni con l'Italia, è un paese purtroppo dove tutto funziona con relazioni informali, non ci sono, non trovano i canali giusti ed è un problema di selezione anche se vogliamo della classe dirigente. Perché l'Italia non è attrattiva? Beh, se non è attrattiva per i nostri diciamo cervelli, talenti di ritorno, come può mai esserlo per talenti stranieri che magari non parlano l'italiano in un paese dove purtroppo fatichiamo molto ancora a parlare le lingue? È un problema che è un blocco che va assolutamente, un ostacolo che va rimosso. L'Italia deve diventare un paese attrattivo. E porto anche un messaggio positivo. Molti, la maggior parte dei nostri giovani professionisti all'estero vorrebbero poter tornare, vorrebbero poter dare il loro contributo a questo paese. Si tratta semplicemente di lanciare dei segnali di ritorno. Chi era il professore universitario che in un articolo del Corriere ha consigliato suo figlio di andarsene all'estero era Pierluigi Celli. Ma noi abbiamo avuto ospite sia Celli che Novari, che invece disse no, ci sono dei buoni motivi, numero uno di H3G, che disse ci sono buoni motivi per restare in Italia. Vedo che alcuni contestano la dichiarazione di Jacopo Morelli su Zeus, sì vabbè, ci può stare anche un refuso in diretta. Invece andiamo avanti sul tema dei giovani. I dati che abbiamo a disposizione, vi anticipo che poi ne parleremo alle 18.10 con l'amministratore delegato di MTV International e vicepresidente di MTV International, Antonio Campodall'Orto, perché mi interessa capire una volta tanto, non da un economista, da un sociologo, come chi fa business, MTV è il canale dei giovani da sempre, business con i giovani, vede il mutamento in corso, quindi sarà un taglio un po' diverso. Ma volevo dire, Sergio, ci sono dati sulla perdita di ricchezza per il paese al di là del 1.200.000.000 che tu prima stimavi? Difficile darli perché innanzitutto non abbiamo bene idea di quanti giovani professionisti lasciano l'Italia. Ci sono stime, dicono 60.000 under 40 l'anno, ma probabilmente sono addirittura sottostimate. Io sono convinto che sia una perdita comunque misurabile in miliardi di euro. Se va via, se emigra, capitale umano qualificato, è tutta ricchezza che perdiamo, è tutta formazione, miliardi di formazione che investiamo e che non ci tornano in produttività. Purtroppo, ancora una volta, la pecca dell'Italia è questo, non riuscendo a misurare l'uscita dei nostri under 40 qualificati, ovviamente è anche difficile quantificarla, ma sono sicuro che parliamo di miliardi di euro. Allora, vedo molti messaggi che mi segnalano che in ambito di notarile sta circolando l'ipotesi di una patrimoniale sui conti correnti. Io non ne so nulla, lo dico chiaramente. L'unica cosa che è circolata, ed era oggi su alcuni giornali, era l'ipotesi che nel DL Sviluppo, alla fine, tutto questo grande disegno di legge sullo sviluppo partorisse un condono o un concordato fiscale. Questa è l'unica cosa su cui stiamo ragionando. Chiudo la parentesi a chi dice legge solo i messaggi che fanno comodo a lei. Non possiamo leggere la polemica ogni volta, centinaia di messaggi. Leggo quelli di critiche che non condivido e quelli di stimoli e spunti. Per esempio, scrive un ascoltatore, in Italia non sei mai qualcuno, ma sei sempre il figlio di qualcuno. Ora, per concludere, Sergio, chi se ne va di solito è o chi è veramente esasperato o chi ha una marcia in più perché ha il coraggio di prendere e andarsene. E ripeto, il problema non è chi se ne va, perché tutti dovrebbero forse fare un'esperienza all'estero se ci riescono, il problema è chi non ritorna. Ma non è che la nostra ostilità, l'ostilità di questo paese verso i giovani e anche se vogliamo verso le donne sia dovuta al fatto che qui quello che conta è la famiglia, cioè riprendo il messaggio dell'ascoltatore, non sei mai qualcuno ma sempre il figlio di qualcuno, cioè che ci sia da sradicare un meccanismo in cui anche alcuni giovani sguazzano, perché poi quando sei figlio di te conviene il meccanismo. Sì, è esattamente il problema. Siamo un paese purtroppo fortemente familistico, fortemente corporativo. Al di là delle parole è così, non c'è nulla da fare. Occorre semplicemente applicare il parametro del merito. E chiunque vada all'estero ti fa un esempio, secondo me, illuminante, quello del calcio. Mourinho non avrebbe mai fatto giocare il fratello di Eto'o solo perché gli stava simpatico. Sceglieva i giocatori in base alla capacità di stare in campo. Se applichiamo questo parametro del merito che il calcio italiano già applica alle imprese, all'università, alla politica, il paese si cambia radicalmente. Ed è lo stesso parametro del merito che questi giovani che lasciano l'Italia trovano all'estero. Sì, mi sembra che l'Italia, come sempre, ti sorprenda al di là di ogni fantasia, perché qui non solo si avvantaggiano i figli di, o i nipoti di, o i fratelli di, o le mogli di, siamo arrivati, diciamo, anche a altri legami di parentela. Per cui, in fantasia, sì. Attenzione a dire che la classe politica dà il peggiore esempio. Ci sono giovani anche in politica, ne cito due così non faccio torto a nessuno, Matteo Renzi e Fabio Tosi, che hanno dimostrato, oltre che fare i sindaci di due grandi città, di avere delle idee. Ci sono giovani uomini o donne che invece sono lì per altri meriti o demeriti, a seconda di come uno lo voglia vedere. Grazie Sergio Nava, buona continuazione del convegno. Meteo, pubblicità e poi la borsa, che comunque ha chiuso positiva in questo momento di un 2,80%. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, vedo che stiamo allevando, non so se giovani, adulti o vecchi ascoltatori, con un grande spirito dell'umorismo, oltre che della critica. Questo fa piacere, sia la critica che l'umorismo, non vi preoccupate. Adesso però non parliamo di giovani per un po', per almeno 20 minuti, perché vorrei tornare sui temi classici di questo programma. Poi, ripeto, alle 18.10 sarà il nostro ospite il numero uno di MTV Italia International, che di giovani se ne intendono, perché con i giovani, e non c'è niente di male, fanno i soldi, ossia fanno i palinsesti televisivi e raccolgono pubblicità, con un pubblico di giovani e giovanissimi in 190 paesi del mondo, quindi anche una capacità di vedere come si muovono le dinamiche giovanili su base globale, non solo nazionale. Più 2,80%, quindi si chiude con un recupero parziale la borsa oggi, e allora parliamone. Più 6,60% Unicredit, più 6,40% Intesa San Paolo, più 5% Mediaset e anche Fiat, più 4,80% Banco Popolare, Prismian più 4,80%, Buzzi Unicem più 4,5%, Exor più 4,5%, Tenaris più 4,5%, Fondiere Sai più 4,40% e poi Saipem più 3,80% come Luxottica, il 3,70% lo guadagna Monte dei Paschi, 3,5% Pirelli e Atlantia, ma anche SteamMicroelectronics e in pregiro. E poi Tod's più 2,40%, chiudiamo con Autogrill più 1,80%, A2A più 2%, Fiat Industrial più 2%, Telecom Italia più 2,1% con come Snam Rete Gas negativa. Enel Green Power meno 2,33% e Ansaldo STS meno 0,70%. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Dunque Livia, troviamo una spiegazione per questa borsa che fa, prendiamo Unicredito, Intesa e Monte dei Paschi. Dunque, mercoledì più 6, adesso vado a spanne, ieri meno 10, oggi più 6. Che faccio, rinvito la maga? Perché l'astrologa? No, perché? Prego. Allora, dobbiamo sottolineare che questa è stata una seduta alternata da balzi e da crolli. Lunedì la borsa ha chiuso in positivo, in negativo. Martedì e mercoledì positiva, ieri negativa e oggi positiva. Complessivamente per Milano, nonostante il balzo di oggi, però la settimana chiude in rosso più o meno dell'1%. Quindi comunque si tratta di rialzi e crolli che sostanzialmente hanno a giorni alterni le stesse cause, nel senso che l'attesa è tutta per il vertice europeo che si terrà domenica e poi mercoledì prossimo, quindi i mercati si muovono su scommesse che a volte possono essere positive sul futuro, a volte possono essere negative, quindi in realtà si tratta è un po' la vita, diciamo così, no? Sì, assolutamente. Ti metto carotone se andiamo avanti con questa analisi, che è la nostra. No, hai assolutamente ragione. Devo dire che oggi non sta buttando bene al vertice Eurogruppo a Bruxelles. Ricordavamo in apertura che il presidente Juncker ha fatto saltare la conferenza stampa perché ha detto non c'è un accordo tra i paesi europei. Stiamo dando una nemmeno pessima, ha detto terribile. Adesso vi ritrovo l'agenzia. L'Europa sta dando un'immagine disastrosa. Ciò nonostante, mi sembra di poter dire che la borsa scommette che un accordo su questo si farà. perlomeno per quello che riguarda i titoli bancari. Anche lo spread italiano oggi è leggermente sceso, è andato sotto quota 400 punti a 384 punti, con i rendimenti del BTP che sono scesi sotto il 6%. In realtà, adesso, al di là delle banche, delle borse ballerine, con appunto tonfi pesantissimi e poi balzi più del gattino che della tigre, mi sembra di poter dire, abbiamo visto notizie interessanti su Eni, giacimento in Mozambico enorme di gas ancora da sfruttare, e poi anche alcuni titoli che hanno vinto, penso per esempio ad Atlantia, gare importanti. Come si sono mossi? Sì, allora, per quanto riguarda, in realtà allora, i titoli non si sono mossi in maniera significativa rispetto all'andamento della borsa, nel senso che Eni ha guadagnato l'1,64%, quindi ha fatto peggio dell'indice, mentre Atlantia in realtà ha fatto meglio dell'indice e ha guadagnato il 3,44%, segno che in questo momento probabilmente le notizie vere ed effettive vengono, possiamo dire, messe da parte a fronte di movimenti che spesso si basano invece su scommesse future dei mercati. Emotivi? Sì, irrazionali? Anche. Com'è? Irrazionali, emotivi? Sì, anche, nel senso che sono le voci, le indiscrezioni, le dichiarazioni che spesso vanno da una parte e dall'altra a muovere il mercato. È più la borsa della portinaia questa che la borsa dei grandi analisti tecnici, cioè, diciamola proprio tutta, traffico e poi titoli. 349-238-6666 per i vostri sms, preparati Livia perché non ho finito. Allora, mi avete corretto anche la citazione, che era chiaramente Carotone, non Carosone, della canzone che mandiamo in onda spesso. E invece Livia Zancaner, al di là, diciamo, delle borse emotive, chiamiamole così, o speculative, o che non sanno che pesci pigliare, Buzzi Unicem, bene oggi assieme a tutto il comparto delle costruzioni. Sì, infatti sono andati bene oggi sia il comparto costruzioni sia i titoli del cemento, quindi sono andati bene anche il titolo francese Lafarge, Heidelberg Cement. A Francoforte, per quanto riguarda in particolare Buzzi Unicem, allora gli analisti e gli esperti quindi sottolineano che nonostante la debole crescita economica europea per il settore delle costruzioni non è atteso un declino così drastico, e per l'Italia in particolare i minori volumi potranno essere compensati da prezzi migliori, quindi Buzzi Unicem ne ha beneficiato e ha chiuso in rialzo del 4,5%. Ancora sui titoli, bene in pregiro, qui tra l'altro c'è un via libera al rifinanziamento di una società che detiene il 29%, giusto? Sì, infatti il titolo ha chiuso a più 2,90%. Praticamente Igli, che è la società che è controllata dalle famiglie Gavio, Benettone e Ligresti, appunto, che detiene oltre il 29% di in pregiro, avrebbe dato il via libera al rifinanziamento. Proprio come ha scritto il Sole 24 Ore, i soci avrebbero trovato un'intesa di massima sul finanziamento di 220 milioni di euro che scade a ottobre, ed oggi era previsto un incontro tra i rappresentanti appunto degli azionisti per definire gli ultimi dettagli. Allora, tra le piccole, così andiamo sui migliori e i peggiori. Ripeto, adesso vedo che molti sono affamati di notizie sulla borsa, però sono borse isteriche, non so come chiamarle, borse nevrotiche, borse emotive, borse che si muovono con pochissimi fondamentali. Non ha nessun senso vedere le oscillazioni dal punto di vista dei fondamentali a cui abbiamo assistito in questi giorni, se non appunto su un'ondata speculativa, per cui basta il primo batter d'ali per fare vendere e magari un'altra ipotesi per fare acquistare. CHL più 19%, CHL. Sì, allora CHL è un titolo più piccolo, più sottile, ma è proprio l'emblema di quello che hai appena detto tu, nel senso che CHL il 19 ottobre ha guadagnato molto, ha annunciato una licenza per distribuire farmaci all'ingrosso, poi ci sono state indiscrezioni sull'ingresso di nuovo socio, indiscrezioni smentite, e oggi il titolo è salito del 19%, quindi comunque anche CHL, che è un titolo più piccolo, si muove sull'ottovolante. Bene, il peggior titolo invece è Saipem, sul risparmio meno 9,26, Monti Ascensori meno 6%. Livia Zancaner, tu quanti anni hai? 32. Pronto? Sì, qua, la domanda è quanti anni hai? 32, ti ho risposto. Quindi sei, ah non ho sentito, scusami, sei giovane. Ti senti più discriminata come donna o come giovane, visto che è il tema del convegno qui a Capri? Guarda, io direi giovane, ma non giovanissima, quindi in mezzo. No, dico, ma più discriminata come donna o come giovane? Ma direi, dipende dalle situazioni. Una volta come donna e una volta come giovane, perfetto. Infatti. Grazie, buon fine settimana a te e a tutti i colleghi di Radio Colle Sole 24 Ore. Noi invece torniamo a fare i seri, ammesso che questo tema non fosse serio, e ci occupiamo di Europa, di queste baruffe chiozzotte tra Francia e Germania, con Juncker che si arrabbia moltissimo. 349-238-6666 per i vostri SMS. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Antonio Poglio Salimbeni, buonasera. Buonasera a voi. Antonio, ecco, tu non sei né giovane né donna. Ne sei né giovane né donna, quindi non sei, diciamo, dentro il mainstream di questa puntata. A parte gli scherzi, ma che è successo a Bruxelles? Juncker si è arrabbiato, ha fatto saltare la conferenza stampa. Antonio, beh, secondo sì, noi, in apparenza non è successo nulla, ma ci sono dei segnali che indicano come la discussione, il negoziato sulla ricetta per risolvere definitivamente il problema della Grecia e la crisi del debito sovrano è ancora in alto mare. Non ci sarà questa sera una conferenza stampa, una comunicazione ai giornalisti su quanto riusciranno a decidere i ministri finanziari dell'Unione Monetaria, che sono riuniti dalle 2 del pomeriggio. Questa è l'indicazione che c'è incertezza totale sul risultato di questa riunione, che ci dicono proseguirà fino a notte fonda. Ai ai ai, gli tocca di lavorare ai leader europei e ai ministri, ma i mercati hanno scommesso invece che un accordo si troverà, per carità, in questo momento i mercati danno la stessa affidabilità dell'astrologia, secondo me, però evidentemente ritengono che alla fine, con varie prese di posizione, delle volte anche un po' ognuno recita la sua parte, si arriverà all'accordo, ti risulta? Sì, io penso che non ci sia alternativa a un accordo. Diciamo che adesso l'Europa in qualche modo è tenuta in ostaggio dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, la quale è tenuta a sua volta in ostaggio dalla propria maggioranza che la sostiene in Parlamento. Questa cosa ha fatto irritare tutti quanti, ma venendo alla sostanza delle negoziate in corso, sono tre gli argomenti sul tavolo. Sono il caso Grecia, come garantire la sostenibilità del debito greco, procedere in quale misura nella ricapitalizzazione delle banche. Terza questione è come usare il fondo salva stati, attribuendo una forza di leverage, una capacità di leverage, e per fare che cosa? Su queste tre questioni, tranne che sulla ricapitalizzazione delle banche, c'è totale disaccordo. Questo è il punto. Tutti d'accordo per salvare le banche francesi e tedesche, ma non solo. Esatto, però sul resto poi miliardi, dovrebbe essere di 100 miliardi complessivamente nella UE l'ammontare della ricapitalizzazione. Allora Antonio, grazie, mi sembra che anche lì poche idee ma confuse, cioè l'unica idea sia quella di arrivare a salvare le banche anche attraverso il salvataggio della Grecia, ma soprattutto poi con iniezione di capitale diretto sulla liquidità delle banche a rischio, però su come farlo non ho ottenuto lumi da te, anche perché probabilmente non me ne potevi dare. Vedremo, sarà molto delicato questo vertice, lo seguiremo anche con i nostri GR, a cui adesso cedo la linea ringraziando Antonio Poglio Salimbeni in collegamento con noi da Bruxelles. Noi ci risentiamo alle 18:07 minuti per parlare di giovani, no, ma di parlare di giovani come categoria, e anche di un paese che non si capisce se li blocca lui o se ha dei giovani più imbelli di altri paesi. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E allora, vedo che il tema dei giovani piace anche molto. Volete sapere quanti giovani ci sono a Radio 24 e quante donne? Beh, insomma, l'età della radio è molto molto giovane, adesso non mi fate fare outing, non so quanti siano, cosa intendete per giovani, però insomma dai 30 ai 40 anni questa è l'età media, che è forse giovane in Italia, sicuramente non in altri paesi, e la metà sono donne. Chiudo la parentesi invece sulla radio, restiamo in tema, e restiamo proprio in tema di chi con i giovani ci lavora, non perché li abbia solo dentro nell'azienda o nella società, ma perché vende un prodotto per i giovani. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, con questa stacchetto, non voglio fare concorrenza, adesso capirete perché, però con questo stacchetto un po' da weekend introduco il numero uno di MTV Italia, che è Antonio Campodall'Orto, vicepresidente di MTV Networks International, appunto una rete che con i giovani lavora, ma soprattutto lavora per i giovani, quindi fa soldi con i giovani. Buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Dicevamo prima, molta retorica delle volte anche sui giovani. In realtà voi come canale, sia a livello internazionale che poi anche in Italia, storicamente siete nati come canale televisivo per i giovani, giovanissimi, ma non solo. Dal suo osservatorio, come ha visto cambiare, che poi voi dovete tradurre in un palinsesto chiaramente, ma come ha visto cambiare le domande che arrivano dal pubblico giovanile, se le ha viste cambiare? Perché magari può anche essere che negli ultimi 20 anni in realtà la spinta che arriva dalla richiesta anche di formati televisivi giovanili non si è cambiata così tanto. La verità è che i cambiamenti con il pubblico giovane sono la parte della quotidianità, per cui noi quei cambiamenti li dividiamo, se vuole, tra i cambiamenti che sono più all'interno di una continuità di generazione e i cambiamenti che invece identificano discontinuità, e questa cosa avviene ovviamente ogni cambio di generazione. La cosa interessante di questo periodo è che stiamo notando, e questo lo si nota in maniera ormai coerente da 5 anni in tutti i paesi del mondo, che siamo di fronte a un cambio generazionale. Cambio generazionale significa che il fondamento valoriale di questa generazione, a cui stiamo parlando, dei ragazzi nati dagli anni 80 in poi, è abbastanza diverso da quella che era chiamata la generazione X, diciamo, che era la generazione precedente. Ecco, la generazione X, come diceva il nome, quella diciamo dagli anni nata attorno agli anni 70, metà anni 70, era una generazione che sfuggiva, se non ricordo male il libro era di Douglas Kaplan, quello che originò il nome generazione X, non identificabile né in quella degli anni 70 e quindi dei moti studenteschi, né in quella del così, riflusso che ci fu negli anni 80. La generazione a cui voi fate riferimento, a cui vi rivolgete adesso, che caratteristiche ha? Diciamo che dal punto di vista di vita quotidiana, la caratteristica che li definisce è il fatto di essere parte di un mondo in cui sono sempre connessi. Questo è effettivamente l'elemento che ha cambiato l'equilibrio con la propria vita e con i propri simili. Se invece uno va sulle caratteristiche dal punto di vista valoriale, probabilmente l'elemento che li distingue rispetto alla generazione precedente è che c'è un netto riequilibrio tra individualismo e atteggiamento verso i propri simili, verso la collettività. C'è una generazione che pensa più al plurale, mentre la generazione precedente è una generazione fortemente individualista. Lei quanti anni ha? 47. Quando è che è arrivato ai vertici MTV? Nel 97, quindi 14 anni fa. Ecco. Quindi lei aveva 34 anni. Che in Italia, non solo in Italia, ma devo dire a maggior ragione in Italia, è considerata un'età giovane. Glielo chiedo perché a mio avviso c'è anche molta retorica sul fatto che i giovani non riescano a trovare spazi. Si risponde ogni tanto, gli spazi te li devi anche cercare. Allora lei, volendo così estremizzare, è più dell'idea che manchino gli spazi perché sono stati occupati anche dalle generazioni precedenti e vengono e restano occupati in maniera pervicace, oppure che non siano le nuove generazioni in grado di scalzare chi sta occupando gli spazi che dovrebbero essere loro? Il tema è chiarissimo. Secondo me l'analogia, purtroppo è un'analogia che può essere applicata a un campo militare, Nel senso che uno, da un lato, deve misurare la forza di chi arriva, e secondo me la forza della generazione che arriva, e lo vedremo nei prossimi anni, è molto maggiore di quella precedenti, perché hanno un pragmatismo, una coscienza di sé che quelli prima non avevano. E quindi questo fa ben sperare, quindi la generazione prima non ce l'ha fatta anche perché non aveva abbastanza forza. Però non è detto il contrario, non è detto che questa sia una condizione sufficiente, è sicuramente necessaria, ma se uno poi guarda i numeri, per questo andava l'analogia militare, ci sono paesi in cui rappresentano una buona parte della società, ci sono paesi in cui sono troppo pochi. In Italia, e lo vedevamo nei dati che ci avete appena fatto vedere, addirittura ci sarà il superamento 2012 di coloro che hanno più di 65 anni rispetto a quelli che sono la fascia giovane. Allora questa cosa ovviamente conta, perché essere in tanti comunque aiuta. Ma il tema del manager, dell'età del manager, è un tema o è un finto tema? Dell'età come del sesso del manager? Rispetto al singolo, secondo me, nella società italiana, essendo che è palese che il merito ha subito delle botte non indifferenti, è un tema vero. All'estero non lo è. E questo vale sia per il gender issue, cioè per il tema legato al sesso, che legato all'età? Credo che sia in primis un fatto legato all'età, perché appunto la società adulta non vuole lasciare i luoghi che ha, e tra l'altro, appunto, essendo che l'economia non cresce, non è che ce ne siano tanti di nuovi, ed è vero che a cascata poi vale per le altre categorie, quindi quella questione femminile è più vera qui che in altri paesi, però credo che la questione giovanile sia il punto chiave. Allora, adesso abbiamo il traffico, la pubblicità e poi torniamo con Antonio Campo Dall'Orto per ragionare. Mi interessa capire, soprattutto visto che MTV è presente in centinaia di paesi, che differenze vedete, se le vedete, con i giovani italiani. Leggo un messaggio, molti messaggi anche su MTV, magari qualcuno glielo giro. Barisoni, sei inadeguato, incompetente, supponente, radiofonicamente insopportabile. Visto che la radio è piena di giovani, passa la mano. Girerò il consiglio al direttore, troppa grazia Sant'Antonio, non troppi complimenti oggi, sennò mi esalto per il weekend. Il traffico. 18 e 17 minuti, e mi dispiace per l'ascoltatore, ma il direttore non ha seguito il suo suggerimento, sono ancora qui, al di là delle battute. Ripeto, lo dico questo a chi scrive sms più seri, al 349-238-6666, non mi appassiona tantissimo il tema del manager giovane, o del manager donna, che per forza deve essere più bravo del manager più anziano o uomo. Non, le trovo delle categorie molto facili e anche un po' qualunquistiche. Però, Antonio Campo Dall'Orto, visto che voi siete in decine, più di un centinaio di paesi al mondo come MTV, lei nota delle differenze tra i giovani italiani e quelli degli altri paesi, e in special modo quelli europei? Allora, solo per dare due numeri, sì. Siamo in 162 paesi, parliamo 27 lingue, siamo in 540 milioni di famiglie. Allora, dentro a questo perimetro noi facciamo analisi costante, ormai quotidiane. Quali sono le differenze maggiori? Le differenze maggiori non sono più, ammesso che lo fossero prima, rispetto alle attitudini o alle speranze, ma sono rispetto alle preoccupazioni, nel senso che oggi, cito una cosa che è stata citata nell'ultima ricerca, trovare un lavoro, che ne so, in Olanda o in Francia è normale, quindi i giovani eroi sono visti coloro che fanno qualche cosa che si distingue rispetto agli altri. Molti ragazzi italiani chiamavano giovani eroi coloro che trovavano un lavoro. Allora, questo dà la dimensione, la differenza tra le aspettative che ci sono rispetto alla soddisfazione personale fuori da qui e qui. Torno a insistere sul tema. Lei ha detto che la generazione dei trentenni, cioè quella sì, precedente a questa, diciamo, del zio la chiamò generazione Tuareg, nel senso che non avevano la capacità di mettersi come fanno i Tuareg invece di mettersi assieme. Era una generazione fortemente individualista, e se ho ben capito lei trova che invece in quella che sta arrivando ci sia una maggior capacità di equilibrarla con un'idea sociale e collettiva. Ma il fatto che non si scalzino le posizioni è dovuto alla resistenza dei vecchi o a una incapacità loro? Perché su questo, diciamo, no, questo è un punto chiave. È il punto. Questo è un punto chiave. Primo, li vedremo all'opera nei prossimi mesi e anni. Quindi, secondo, non c'è dubbio che questi siano più forti perché sono riformatori e non rivoluzionari come quelli di prima. Rivoluzionari, tra l'altro, dell'onda lunga, cioè di quelli che la rivoluzione l'avevano sentita raccontata dagli altri. E quindi questa cosa li rende molto più pragmatici. Secondo me non sono ancora giudicabili rispetto a questa capacità di aggregarsi, perché li stiamo vedendo adesso aggregarsi. Dimentichiamoci di quelle che sono le frange di Black Bloc, la violenza, certo, che si è vista. Quella cosa è una cosa che non so come dire, non appartiene a quella generazione, una parte estrema che succede più qua che in altri paesi, più per il nostro passato che per quello che c'è, no, oggi presente. Però secondo me queste persone qua il cambiamento lo faranno. Il problema è quanto tempo ci metteranno, perché a seconda di quanti spazi riusciranno ad occupare, ci metteranno appunto più o meno tempo. Ma l'altra domanda che noi ci stiamo facendo è che questa cosa qua pone il problema per questa generazione di mettere in discussione uno dei cardini di questa generazione. Questa generazione mette al centro come modello proprio di vita i propri genitori o il mondo adulto. Per riuscire a cambiare questo mondo qua dovrà rimettere in discussione questa cosa, perché è il mondo adulto in questo momento qui, soprattutto in paesi come il nostro, che miope, avido, egoista, sta impedendo che questi possano fare. Stiamo valutando i fatti in molti paesi, stiamo cercando di vedere cosa succederà della frustrazione che c'è oggi, perché la frustrazione per il momento oggi ha solo causato manifestazioni positive, cioè dire dateci un pezzo di futuro. Per quanto tempo avverrà questa cosa qua se la porta rimane chiusa? Ed è la domanda sua. Cosa accadrà nel momento in cui questa porta rimane chiusa? Mi sa che lo scopriremo live nei prossimi anni. Sì, e non è detto che sia una bella scoperta. Io ricordo anche molte analisi in questi giorni in chi ricordava come proprio dal movimento del 68, inizialmente pacifico e studentesco, la incapacità della politica di allora in Francia, ma anche soprattutto in Italia, di capire queste istanze portò poi a un'esasperazione del movimento stesso fino alla parte, diciamo, più violenta e acuta degli anni 70. Prego. Però c'è una cosa molto diversa. Questa generazione è fortemente post-ideologica, a parte, ripeto, alcune manifestazioni che poi... Sì, è vero. E questa cosa qua li spinge. Non è un idealismo che poteva essere presente negli anni, no, 60, oppure negli anni successivi, dove non c'era idealismo nel senso pieno, ma c'era la volontà di avere una vita sex, drug and rock and roll, come la chiamavano. Ma questi sono molto pragmatici, è per questo che credo che saranno più forti nel medio e lungo periodo. Perché non si fermano? Perché stanno soltanto chiedendo: noi conosciamo le vostre regole, sono sbagliate, ci tengono fuori, noi questa cosa la cambiamo, perché tanto siamo più giovani di voi, ci metteremo 5, 10, 20 anni, ma questa cosa la cambiamo. Ecco, e se fosse che in realtà è il futuro, come è scritto sulla triennale, a non essere più quello di una volta, e cioè che le richieste dei giovani sono anche legittime, ma nel momento in cui tu hai spostato l'asse produttivo del mondo verso la Cina e l'India, l'Europa deve ritagliarsi un altro ruolo. Forse è chiaro che la redistribuzione economica in questo momento avviene creando miliardari in India e in Cina, non miliardari in Europa. Forse gli andrebbe spiegato che il futuro non è più quello di una volta, al di là, diciamo, di chi in questo momento cerca di interpretarlo, e quindi i quarantenni, i cinquantenni. Sì, ma secondo me andrebbe spiegato più ai quarantenni e cinquantenni che a loro, perché loro stanno imparando, perché loro ci stanno crescendo dentro questa società qui. Sono i quarantenni e cinquantenni che non hanno capito ancora che devono abbassare le proprie aspettative di vita. Che siamo noi, io e lei? Sì, assolutamente sì. Che dobbiamo abbassare le aspettative di vita? Assolutamente. Non in termini di età. No, quello sennò, diciamo, il gesto scaramantico è d'obbligo. Questo nella gestione poi delle economie, delle scelte anche economiche, che ripercussioni ha? Lei ricordava una cosa molto importante, è la prima generazione costantemente connessa, e l'abbiamo visto perché la velocità di propagazione di qualunque idea, giusta o sbagliata, era inimmaginabile prima. Questo cambia anche noi lo chiamiamo pubblico, insomma, di riferimento per un'impresa. Assolutamente, perché cambia il modo in cui intendono la propria vita, quindi l'aderenza di qualunque cosa facciano, che sia intrattenimento, informazione o qualunque attività ludica, oggi deve aderire alla loro vita, mentre prima in qualche modo aderivano alla vita, che ne so, noi facciamo televisione, musica, più di quello che avremmo proposto noi. Quindi non c'è dubbio che questa cosa sta cambiando radicalmente. Loro sono il centro del mondo e gli altri devono adattarsi, perché con cellulare e internet loro sono effettivamente, fanno quello che vogliono. Ecco, se dovessi immaginare un giovane che prende il suo posto, come lo immagina? Ma io spero che sia della generazione che sta arrivando, cioè nel senso di quelli che oggi hanno 25-30 anni. Ma è possibile questo in Italia o non è ancora un paese per giovani? In Italia in questo momento, se parliamo strettamente di media, non è possibile. Speriamo che sia possibile presto. Ecco, una cosa mi interessa particolarmente, visto il programma che faccio, ma anche la radio in cui lavoro. Il feedback, le risposte che voi ottenete dai giovani in termini di consapevolezza politica e anche capacità di analisi politica da un lato e di rapporto col mondo dell'economia e della finanza? Quali sono? Perché avete un osservatorio che è un po' diverso dal nostro. Allora, dal punto di vista della politica c'è una chiara e netta volontà di maggiore partecipazione. Non c'è una conoscenza dettagliata dei meccanismi della politica, però c'è un atteggiamento immediato di maggiore favore rispetto al fatto posso fare qualcosa per me e per gli altri. Questa cosa è fuori di dubbio. Sull'economia non ci sono, ovviamente, vista l'età, comprensione netta dei meccanismi che governano l'economia, però allo stesso tempo c'è una chiara comprensione del fatto che coloro che decidono oggi delle tasse, delle pensioni, influenzano la loro vita oggi e domani, cosa che 10 anni fa, 15 anni fa non era proprio un problema, cioè non veniva considerata come una delle cose di cui uno dovesse preoccuparsi. Anche perché c'erano attese comunque crescenti. E quindi lei dice che siamo noi quarantenni, cinquantenni a dover capire che le attese sono decrescenti, che il futuro non è più quello di una volta. Loro l'hanno capito benissimo. Loro stanno capendo sulla loro pelle e stanno capendo anche che le nostre generazioni non stanno facendo niente per dare a loro delle cose levandole a sé, perché poi appunto siccome la coperta è corta comunque per l'Occidente, è come se noi, società che comunque ha vissuto anni positivi, dovesse dare qualcosa a loro oggi. Un'ultima domanda, se lei dovesse fare un format dedicato a questi giovani, non voglio rubare i segreti diciamo di MTV, perché altrimenti poi ce li rivendiamo domani in radio, però no... Che caratteristiche dovrebbe avere per far capire poi come si traduce questo in un atto anche commerciale? Non c'è nulla di male. Ma il primo elemento che introducono in qualunque tipo di comunicazione oggi è l'elemento di autenticità. Cioè oggi, e questo lo si è visto nella televisione che è cambiata negli ultimi 10 anni, oggi quello che uno racconta deve essere autentico. Autentico sia che sia scritto, sia che sia reale. Cioè l'autenticità può valere anche per un telefilm, non è che debba essere solo applicata alla televisione che rappresenta le persone che... No, che vivono la città oggi. E questa è una cosa fondamentale e secondo me questa, chiudendo rispetto alle domande che faceva rispetto all'Italia, credo che sia una delle differenze più grosse. L'Italia è l'unico paese che fa fatica a maneggiare la verità. Cioè noi negli altri paesi, storicamente, noi facciamo fatica, però questa cosa ha un limite più grosso oggi che qualche tempo fa. Per questo che la mia speranza è che questa generazione qua, anche se nell'arco di qualche lustro, cambierà il rapporto con come sono le cose. Perché se uno cambia quello, poi i problemi come li risolve? Ma noi abbiamo questa difficoltà perché siamo ideologici rispetto a un'idea di verità, di una verità... No, non sono sociologo, questo no. Non lo so. Io quello che posso assicurare è che è un elemento di differenza nettissima con l'estero. Le ragioni storiche, antropologiche o sociologiche. Per allora, visto che lei è arrivato ai vertici di MTV a 34 anni, preferirebbe avere diciamo 30 anni adesso o averli avuti allora? Ah, senza dubbio allora, no, non c'è dubbio, perché allora anche in questo paese c'erano molte più possibilità di... Io non ho mai avuto la sensazione di non avere opportunità, oggi le persone che hanno 30 anni hanno quella sensazione, quindi non c'è dubbio che preferisco essere nato allora. Ecco, dopo questa domanda che pericolosamente fa scivolare il programma verso una dimensione alla Marzullo, io interromperei questa intervista. Okay. Grazie al vicepresidente esecutivo di MTV Networks International, Antonio Campodall'Orto. Arrivederci e grazie a voi. E nel salutarvi, due precisazioni: né io né Campodall'Orto siamo raccomandati o figli di, visto che lo chiedevano in molti, domanda legittima. E poi c'è Enzo che scrive: i giovani secondo me non cambieranno un bel niente, invecchieranno e poi bloccheranno i nuovi giovani. Mancava solo che aggiungesse poi moriranno, e così una bella nota di ottimismo nel finale del programma. Grazie a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno, anche questa settimana per l'assistenza in redazione, a Davide Cioccia e Pietro Lacorte per l'assistenza in regia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona fine settimana e serata. Ci risentiamo lunedì. Radio 24. La passione si sente.